si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Buona domenica da Federico Taddia, questo è Si può fare, io sono il supplente di Alessio Maurizi, ancora convalescente. Come sempre, il sabato e la domenica siamo qua per raccontare un'altra Italia, un'Italia silenziosa, un'Italia che si muove, un'Italia che fa cose. Noi cerchiamo di portare questi punti di vista. Carlo Gabardini sarà il mio compagno di viaggio, come sempre. Oggi avremo ospite la senatrice a vita Elena Cattaneo, la professoressa Cattaneo, con la quale parleremo di cervelli in fuga, ma soprattutto di cervelli di ritorno, perché c'è un importante progetto legato ai ricercatori. Parleremo della qualità della cena e cosa lega la qualità della cena in famiglia con la produttività sul lavoro, e poi come sempre tante piccole storie che fanno grande il nostro paese. Ma come ogni domenica apriamo la nostra edicola. Nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Apriamo l'edicola di Si può fare e ci ritroviamo Mauro Meazza del Sole 24 Ore, che avete ascoltato fino a poco fa nella consueta rassegna stampa. Adesso andiamo ad approfondire qualche notizia. Ciao Mauro, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e di nuovo. Che insomma è il bello anche di leggere i giornali, la rassegna stampa. C'è la rassegna stampa ordinaria, poi rimane indietro qualche notizia, qualche pagina che uno vorrebbe portare appunto agli ascoltatori. Abbiamo la possibilità oggi di fare qualche approfondimento. Sì, infatti è proprio così, è vero che nelle rassegne stampa fatalmente un po' tutti si tende a privilegiare poi le grandi notizie. Allora oggi bisogna parlare di Napolitano, bisogna parlare dello sciopero dei dipendenti pubblici, e magari bisogna dare qualche indicazione per la settimana dal punto di vista economico, lavorativo, che comincia domani. E quindi poi restano indietro delle cose che però farebbe piacere segnalare. Ad esempio, è vero che la nostra trasmissione si chiama Si può fare, però qui ci metterei quasi un punto interrogativo un po' di sgomento. Sì. Perché ho davanti a me l'iniziativa bella del Secolo XIX, giornale di Genova, come sappiamo, che oggi ha deciso di ricoprire, di rivestire la sua prima pagina con un quartino, cioè quattro pagine che sono dedicate a Genova un mese dopo l'alluvione. E vedendo un po' la cronistoria che viene spiegata in queste pagine, viene da dire: ma si può fare? Ma davvero si può aver fatto qualcosa del genere, o meglio non aver fatto qualcosa del genere? Marco Menduni firma una lunga ricostruzione delle vicende burocratiche, giudiziarie, ingegneristiche che accompagnano le alluvioni di Genova. Noi sappiamo, perché l'abbiamo anche scritto tra l'altro sul Sole 24 Ore proprio nei giorni dell'alluvione, la tenuta del torrente Bisagno e il suo imbrigliamento erano un problema già quando si decise di farlo un secolo fa. Si sapeva che lì, insomma, si rischiava di sottostimare la portata del fiume in certe condizioni, però si è andati avanti lo stesso. Va bene, questa è una cosa di un secolo fa, oramai è inutile parlarne. Forse è più utile apprendere, e leggo qui appunto dalla ricostruzione di Menduni, che è dal 1970 che si fece un progetto. Era ben chiaro che qualche cosa, insomma, per le consuete, viene da dire, periodiche alluvioni a Genova, bene, bisognava intervenire in qualche modo. E Menduni comincia così: c'era stata l'alluvione disastrosa del 1970, 44 morti, 2000 sfollati, danni incalcolabili nei quartieri devastati dal Bisagno, e c'era stata una commissione sul disastro istituita il 13 febbraio dell'anno successivo, quindi siamo al 13 febbraio del 1971, al Ministero dei Lavori Pubblici. Si riunì per 7 sedute fino al 21 ottobre, conclusione ineludibile: bisognava intervenire in maniera determinata e massiccia sul torrente. Ebbene, vi rimando alla pagina, perché è davvero un servizio molto dettagliato e comprende anche una cronistoria, anche con immagini delle vicende, appunto dal 1986, cioè da quando, come dire, da quel 1971 finalmente parte, sì, qualche lavoro per fare qualcosa, e si arriva, ohimè, al 9 ottobre 2014, cioè esattamente 30 giorni fa, quando di nuovo il Bisagno esce dagli argini, una vittima e c'è una nuova ennesima alluvione a Genova e poi tutto quello che abbiamo visto. E allora di nuovo abbiamo scomodato anche noi giornalisti queste retoriche, per carità importanti, ma da un certo punto di vista in casi simili, in casi così reiterati, ci rischiano di suonare false, degli angeli del fango. È bellissimo, vediamo questi studenti che volontari si mettono a spalare, in qualche caso addirittura a svuotare i tombini con le mani, è tutto fantastico, però quando si poi leggiamo appunto come stamattina dal secolo XIX che dal 70 che avevamo deciso di fare qualcosa siamo arrivati al 2014, ci viene da pensare che molti di quei ragazzi che sono andati a svuotare i tombini con le mani non erano nemmeno nati, e questo non è una cosa che ci faccia piacere commentare. Vorrei segnalare, tra l'altro, era stato fatto, era poi uscito nei giorni proprio dell'alluvione sui giornali, lo ricorda Mendoni sul secolo XIX. Si decise all'epoca di partire dal Fereggiano, che è un affluente del Bisagno, dice quello è il problema, allora facciamo un tunnel, facciamo una galleria in modo che ci sia un minore carico, una minore portata di acqua. Ecco, la galleria si è fermata a 900 metri. Per completarla all'epoca sarebbero serviti 43 miliardi di lire. Scrive Mendoni, oggi è possibile vedere l'inizio di questo tunnel sulla spiaggia di Corso Italia, è una galleria sbarrata, il primissimo tratto è diventato un rimessaggio di surf, dietro un lungo camminamento oscuro e cieco. Questo allora per quello volevo chiederti se potevamo per una volta aggiungere un punto interrogativo in fondo al nostro titolo, ma si può fare? Si dovrebbe fare, vero? Forse si dovrebbe fare. Va bene, non so se abbiamo abbiamo un minuto per un'altra segnalazione. Questa era bella. Allora segnalo una cosa che trovo su Repubblica, il profumo per lei 30 euro di più, così tra gli scaffali spunta la tassa rosa, dal bagnoschiuma ai jeans un'inchiesta spiega perché un prodotto aumenta di prezzo nella versione femminile, e ci dice Cristiana Salvani, il prodotto è lo stesso ma le donne lo pagano di più, succede per la boccetta di deodorante, il rasoio, il bagnoschiuma, il più classico dei jeans, uguale alla marca, simile alla confezione, ma se viene commercializzato per lei la cifra sul cartellino sale del 10, 20 o anche 50%. Negli Stati Uniti lo chiamano woman tax, tassa rosa in Francia, ed esiste anche in Italia. I dettagli poi nel servizio di Cristina Salvagni, che appunto ci sentendo anche dei docenti di marketing, dei responsabili degli insegnanti di marketing, ci dice che c'è effettivamente questa disponibilità da parte del pubblico femminile a pagare di più anche per prodotti analoghi. Non so se possiamo addirittura sollecitare qualche sms dagli ascoltatori all'abituale 349-238-6666 o più correttamente, visto il tema, dalle ascoltatrici, perché effettivamente poi nell'inchiesta della Salvagni leggiamo anche che alla fine il consumatore, la consumatrice meglio, non è poi così diciamo ingenua, per non usare termini più forti, da voler pagare di più, ma effettivamente forse volendo attribuirsi un maggior valore appunto è disponibile a pagare di più anche se non vorrebbe farlo. 349-238-6666 se avete così qualche ragionamento, qualche riflessione su questa particolare quota rosa. 8:45, so che c'è una tradizione sì, mattutina, assolutamente, vero? Allora come facciamo da lunedì a venerdì, adesso traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare l'edicola con Mauro Meazza. Mauro, abbiamo invitato i nostri ascoltatori a scriverci, è arrivata subito una testimonianza al 349-238-6666. Nel 1970, la grande alluvione, quando esondarono praticamente tutti i torrenti di Genova, avevo 12 anni, le mani nel fango, tutti i negozi sotto casa e nulla è cambiato, niente, solo i politici sono gli stessi. Stefano da Genova. E purtroppo dovrebbe da dire no, perché nella ricostruzione di Mendoni sul secolo XIX sono passate diversi colori politici, sia localmente sia a livello nazionale. Le cose poi sono state avviate in qualche modo, ma come per la galleria ricordata da Mendoni si sono fermate per i motivi più diversi, per burocrazia, per ricorsi amministrativi, per decisioni di giudici amministrativi, però è un fatto che il Bisagno sta sempre lì e periodicamente, ripeto, chiede il suo dazio, in qualche caso anche con le vittime, e questo davvero si può fare? Adesso l'appuntamento domenicale invece con il supplemento del Sole 24 Ore, la domenica, e con noi c'è il responsabile Armando Massarenti, col quale leggeremo le pagine. Ciao Armando, benvenuto a Si può fare. Ciao, buona domenica. Buona domenica. Sono Federico Taddia, oggi sostituisco Alessio e con noi c'è Mauro, che ben conosce. Allora, Armando, dove ci accompagni oggi? Quali sono i titoli che ci suggerisci? Ma guarda, come al solito non è facile dire tutto, ma proviamo a concentrarci su qualche cosa. Per esempio la copertina. La copertina è un bel racconto, una parte di un romanzo intero in realtà, scritto da uno scrittore inglese, Tim Parks, molto noto e molto, anche di grande successo, che fa un vero e proprio viaggio in Italia. Scompartimento Italia è il titolo che noi abbiamo dato a questo articolo, molto gustoso perché racconta degli episodi di treni, si intitola Coincidenze sui binari da Milano a Palermo, questo libro. Noi qui abbiamo scelto un estratto che racconta alcuni episodi piuttosto gustosi, proprio con il punto di vista di qualcuno che vive in Italia, ma che comunque ha mantenuto tutta la verve, tutto lo humor di uno scrittore vivace, insomma, inglese, e comunque molto inglese, e che ci osserva un po' come fosse un antropologo, insomma, ci vede. Per esempio dice che alla stazione di Porta Vescovo a Verona trova questo cartello, no? Mentre un cartello sul primo binario mi spiega che le multe per chi osa infrangere il divieto di entrata nell'ufficio del capostazione vanno dai 258 ai 1549 euro e sono autorizzate dall'articolo 19.3 del DPR, eccetera, eccetera, insomma, con una cosa burocraticissima. Sul binario 4 nessuno ha pensato di avvertire i turisti in arrivo da Venezia che questa non è la stazione principale di Verona. Da qui una grande cagnara, perché questi poveretti poi dovranno prendere un taxi, perderanno tutti i treni. Poi c'è un episodio molto bello sulla questione della prima e della seconda classe, di questa una signora che si siede in prima classe pur avendo il biglietto in seconda, e tutta la scenetta in cui fa finta di essersi sbagliata con il controllore. Cosa molto gustosa. Vita da treno, che è sempre una grande metafora. Esatto. Vita da treno con tutti gli annessi e connessi. Sempre visti da fuori c'è una cosa più seria, la terza pagina. Raffaele Liucci rende conto di un libro di uno dei due nostri più grandi storici, Emilio Gentile, nostro collaboratore peraltro, nostro illustre collaboratore, che fa vedere come in realtà gli intellettuali, i giornalisti di tutto il mondo videro il fascismo fin dal suo nascere e poi per tutta la durata, appunto, del ventennio. Anche questo, appunto, uno sguardo da bello vedere l'Italia, insomma, da fuori, ecco, sì. Cioè vederla con tutta la criticità che magari noi stessi vediamo, ma con un punto di vista che è ancora più allibito, se vogliamo, per certi versi. Personalmente ho trovato molto interessante anche, scusa se ti interrompo, questo articolo sulle ore prima della storia, questo sulla caduta del muro, questo errore del portavoce del Partito Socialista, che è, insomma, un po' la storia meno nota, la storia meno raccontata. C'è un ottimo pezzo che cade proprio oggi, che è l'anniversario della caduta del muro. E, mentre Mauro ha avuto un momento nostalgico, Armando, buongiorno, io volevo ringraziarti perché non so se tu sapevi che sarei stato qua, ma sto bevendomi l'articolo di Stefano Salis su Paolo Conte. Certo. Paolo Conte, che non so se tutti gli ascoltatori adorano con la mia adorazione, però come dire, viene raccontato nelle sue atmosfere, nelle melodie di questo disco, proprio da Salis, sulle pagine del Domenicale, esatto, di oggi. Sì. Ti volevo soltanto ringraziare perché tu sai quanto io ami questo cantautore, e è stato davvero un bel gesto da parte tua fornirmi questo articolo proprio oggi. Tra l'altro diciamolo pure che il disco si chiama Snob ed è un disco dopo 4 anni che non faceva dischi Paolo Conte, e praticamente sono 40 anni di carriera, e Paolo Conte, devo dire, è un autore, intanto dovete ringraziare non me ma Stefano Salis che l'ha scritto, è un autore molto, che io trovo molto molto vicino a proprio lo spirito del Domenicale, cioè un autore in realtà raffinatissimo, che però riesce a guardare, insomma, a parlare alla mente di tantissime persone. E sì, i versi di Paolo Conte, oltre alle musiche, sono veramente di una finezza assoluta. Questo suo nuovo disco non è un disco tardo, diciamo, ma è un disco, lo dice molto bene Salis, appunto, qualcosa di assolutamente molto fresco che non ci spinge solo a risentire le vecchie canzoni, Gelato al limone o La giardiniera rosa. Posso segnalare ancora magari un paio di cose. Abbiamo parlato di Salis, un altro della nostra redazione, Marco Carminati, è un altro pezzo che io veramente vi consiglio, vi consiglio la mostra di cui lui parla, è la mostra in cui si parla della bottega cimentale del Pollaiolo, dove per la prima volta, sapete che proprio è l'emblema del Pol di Pezzoli, questo profilo di una dama realizzata appunto dal si dice dal Pollaiolo, in realtà appunto da quale Pollaiolo, perché erano vari fratelli, e qui per la prima volta mettono insieme le quattro dame e i quattro profili che esistono, non solo quella del Pol di Pezzoli, lo fanno appunto al Pol di Pezzoli, ed è possibile ragionare su come funzionava appunto una bottega rinascimentale. E, insomma, ci sono poi tante altre cose. C'era qualcosa che vi ha colpito? A me è piaciuta molto, lo sai che Armando, io sono quello un po' così, mi è piaciuta molto la recensione di Interstellar, filosofico e spaziale, a firma di Emanuela Martini, anche perché ieri abbiamo avuto qui Giovanni Bignami che ci ha raccontato un po' il dietro le quinte scientifico di questo film. Insomma, mi sembrava una bella fotografia di questa pellicola. Vabbè. Ah beh, allora ricordiamo anche l'ultimo film di Olmi, ecco, c'è Monreal che recensisce da par suo l'ultimo, visto parliamo di cinema, parliamo anche appunto di questo che è un evento molto importante, ecco, questo film sulla prima guerra mondiale, dove Olmi fa un film di realtà contro la guerra. Certo, ecco, torneranno i prati, ricordiamo, questo è il titolo. Grazie davvero Armando per così aver assaggiato con noi la domenica del Sole 24 Ore. Buona giornata. Grazie a voi, buona domenica. Anche a te. Mauro, grazie anche a te per aver animato l'edicola di Si può fare. L'appuntamento con te invece è a lunedì mattina, domani mattina con Alessandro Milan. Domani mattina, come sempre. Nella telefonata con Alessandro Milan, adesso la sua squadra si è ben disimpegnata, ieri si è ben disimpegnata, vedremo cosa potremo dirci domani mattina. Grazie. A domani, grazie a voi. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buona domenica, questo è Si può fare, io sono Federico Taddia e questa musica serve per accogliere, per accompagnare, per avvolgere il vero padrone di casa che ci ha raggiunto, Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Ciao. Ti piace? Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Sì, sono molto contento, direi era da tanto che non facevo due trasmissioni in fila con lo stesso co-conduttore, quindi ne sono molto contento. Ricordiamo tutti che Alessio Maurizi è a casa in convalescenza, ma sta bene, insomma, non è grave, e quindi tornerà fra noi presto, però oggi sono felicissimo che ci sia qui Federico Taddia a co-condurre con me. Stavo aspettando la vendetta, visto che ieri ti ho chiamato Guido, ho detto sentiamo un po' come mi chiama oggi. Ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai. Due ore in diretta su Radio 24 per raccontare un'Italia migliore, un'Italia viva, un'Italia piena di belle notizie che appunto Si può fare e utilizza per come colonna portante di questa Italia. Allora, le coordinate 349-238-6666 per i vostri SMS, oppure il numero verde che è l'800240024, numeri che potete utilizzare per raccontarci la notizia che vi ha cambiato la settimana, la notizia, certo, bella, oppure per rispondere ai nostri inviti E poi c'è il gioco che caratterizza Si può fare. Sì, signori, soprattutto la domenica, che è un gioco diverso. Noi la domenica cerchiamo un personaggio della settimana, quindi un personaggio al quale è legata una notizia di questa settimana e per il quale daremo degli indizi, giusto? Allora, diciamo subito che in palio ci sono due biglietti per la mostra di Van Gogh a Milano, 800 24 00 24, il numero verde. Gli indizi, da cosa partiamo? Partiamo da questo primo indizio, che è: in pubblico non appare mai da solo il nostro personaggio. In pubblico non appare mai da solo. Sì, signori. Poi ricordiamo anche che oggi è il 9 novembre, diciamo, anniversario della caduta del muro di Berlino, il 25esimo anniversario, giusto? Giusto. Era il 1989, me lo ricordo bene perché io facevo la scuola tedesca ai tempi, quindi figurati, abbiamo festeggiato tantissimo, nonostante si possa pensare il contrario, invece abbiamo festeggiamo moltissimo. Poi io sono stato a Berlino... Ah, forse questo tradisce la mia età, cosa che, come ben si sa, non ci tengo molto a dire, però diciamo, ero stato a Berlino quando c'era ancora il muro e poi ci sono tornato senza muro, sempre con la scuola tedesca. Insomma, oggi sui quotidiani tantissime immagini, anche tantissimi racconti, tantissime storie su questo importantissimo anniversario. E l'altra notizia che invece personalmente, che sono, perché sono lo stupido dei due appunto, mi ha colpito moltissimo, è la questione del Presidente della Repubblica. Devo dire che sono, è tutto il giorno che ci penso, cioè non mi aspettavo che fosse così imminente che Napoli Politano decidesse, diciamo, di rassegnare le proprie dimissioni. Addirittura si parla di entro fine anno. Si parla, perfetto. No, io chiedo a te, che sei il giornalista, e quindi mi sono proprio interrogato e devo dire che io non saprei chi vorrei come Presidente della Repubblica. Quindi direi, intanto chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamarci anche su questo e di proporci il loro Presidente della Repubblica ideale. E poi, non lo so, tu Fede, tu chi vorresti come Presidente? Io in realtà è tutto la notte che ci penso e ho pensato che forse la risposta perfetta è quella che hai dato ieri tu sul Made in Italy. Forse Paperinik. Subito, eh. Forse Paperinik come Presidente della Repubblica sarebbe un bellissimo presidente. Se no, non lo so, insomma, Emma Bonino è un classico nome che si fa spessissimo, però sento anche un sacco di nomi che mi stupiscono. Sono agitato, non lo so. Ma sai che è vero, cioè, ti ho visto entrare già agitato questa mattina, ho detto: che cosa, caro? Sì. Entra questa cosa del presidente. Perché in fondo il presidente è un po' un papà e quindi svegliarsi la mattina che dice il papà vuole andarsene, ci sono rimasto un po' così, ho detto che cosa succede adesso? Cioè, al di là di tutto quello che si può dire su Napolitano, insomma, non è che sia un endorsement o meno, però comunque è il nostro presidente e quindi svegliarsi la mattina, e tra l'altro anche questa sensazione do le dimissioni è sempre che suona diverso, nel senso che o finisci il mandato oppure per altre cause uno finisce, ma che dà le dimissioni da padre è sempre molto difficile da accettare. 349-238-6666, vostri SMS 800 24 00 24, il numero verde, e apriamo questa puntata con una storia che ha radici antiche, una storia che vede una coppia di pensionati come protagonista, una coppia di pensionati che a un certo punto decide di cambiare vita, decide di dare una svolta al loro percorso di coppia, anche insieme a un falegname, a un maestro d'ascia, costruiscono un'imbarcazione, con questa imbarcazione partono, fanno il giro del mondo. Una storia antica, una storia che rivive per un doppio motivo, rivive perché fu realizzato un libro, una sorta di diario di viaggio che viene ripresentato, torna in libreria, infatti, Le Isole Lontane, libro riedito da Mursia, che racconta questo diario di bordo scritto da Sergio e Licia Albeggiani. L'imbarcazione ha un nome che si chiama L'Isca Bianca e questa imbarcazione sta riprendendo vita per un progetto sociale. Di tutto ciò ne parliamo con il primo ospite di oggi, diamo il benvenuto a Elio Locascio. Ciao Elio. Ciao a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Buona domenica. Tu sei sociologo e mediatore penale, andremo a capire, sì, perché sei uno dei tanti protagonisti di questa bella avventura. Chi è e che cos'è l'Isca Bianca intanto? Allora, l'Isca Bianca non è semplicemente una barca, è un'avventura, è una storia, come accennavi tu. È la storia di Sergio e Licia Albeggiani che decidono, una volta in pensione, di realizzare il sogno di una vita, cioè girare il mondo a bordo di una barca interamente costruita in Sicilia alla fine degli anni 70. Nell'84 decidono, fino dopo una serie di viaggi intorno al Mediterraneo, che è il momento di lasciare Iormeggi da Porticello, che è una piccola borgata marinara di Palermo, per avventurarsi appunto in giro per il mondo. Ritorneranno nell'87 chiaramente con un'accoglienza festosa di barche, di amici e anche di gente che in questi anni si erano appassionati a questa avventura. Quindi diciamo che è una barca, ma anche un po' prendendo spunto dal titolo della trasmissione, è anche un invito al fatto che si può fare e che se uno, diciamo, ha un sogno con sacrifici, dedizione e passione lo può realizzare. Quindi rispetto al progetto sociale questo è molto importante, perché il progetto poi di restauro della barca è affidato a dei ragazzi che in questo momento vivono situazioni di svantaggio, quindi sono i ragazzi del carcere minorile Malaspina di Palermo e i ragazzi di una comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti, per cui a loro è affidato il compito di ridare vita, come si diceva poco fa, a questa barca, a questa storia. Appunto, perché dopo il primo viaggio di Sergio e Licia Albeggiani c'è un secondo viaggio durante il quale Sergio per cause naturali viene a mancare, l'imbarcazione rientra in Italia, l'imbarcazione che viene abbandonata di fatto, viene dimenticata. Sì, nell'89 appunto purtroppo Sergio Albeggiani, il comandante di Isca Bianca, di questo equipaggio molto piccolo, perché a bordo erano in due, marito e moglie, purtroppo viene a mancare, e quindi la barca, una volta che ritorna a Palermo, per due anni la signora Alice Albeggiani, che è tuttora viva e sta benissimo, una donna minuta ma potente, con un grande carisma, per due anni continua a vivere in questa barca, e poi nel 91 decide di lasciarla lì alla Cala, che è il porticciolo turistico di Palermo. Per un po' di anni la famiglia se ne può occupare, essendo una barca in legno, per cui che ha bisogno di cura, di manutenzione, con gli anni, diciamo, per una serie di motivi viene in qualche maniera lasciata un po' all'abbandono, finché l'anno scorso, aprile dell'anno scorso, con un giovane progettista siciliano di Pantelleria, Francesco Belvisi, ci accorgiamo che questa barca rischia, da lì a poche settimane, rischia la demolizione. E quindi in quel momento decidiamo che questa barca, proprio perché ha una storia molto bella, dove c'è un orgoglio anche della Sicilia, quella che appunto vuole fare le cose. E quindi in quel momento capiamo che forse l'unica cosa che possiamo mettere in campo è un progetto sociale di inclusione che contemporaneamente fa due cose. Da un lato insegna il mestiere del mastro d'ascia, che è un mestiere che si sta perdendo, perché chiaramente è un mestiere che si tramanda di generazione in generazione, e contemporaneamente, ovviamente in una chiave anche un po' moderna, innovativa, perché utilizziamo all'interno del cantiere di Isca Bianca anche le fresh controllo numerico, quindi chiaramente è da un lato un restauro artigianale, ma anche la possibilità per questi ragazzi di imparare anche nuove forme di produzione, e dall'altro anche, una volta che la barca sarà in acqua, contiamo di farlo, se continuiamo ad avere il supporto delle persone, delle istituzioni, continuiamo di farlo a maggio, quando la barca sarà in acqua verrà utilizzata per progetti di vela solidale e di turismo sostenibile, per cui questa barca poi sarà utilizzata per portare a mare i disabili, per portare a mare i ragazzi dei quartieri a rischio di Palermo, i ragazzi del Malaspina con cui già noi facciamo attività di vela, perché diciamo il sogno poi è quello che i ragazzi stessi condurranno l'Isca Bianca un po' in giro per le coste del Mediterraneo. Ma mi scusi, le faccio una domanda, perché ho letto che questa barca poi verrà usata anche per la velaterapia. Sì, esatto. Che cos'è la velaterapia? No, la velaterapia da parecchi anni, diciamo a Palermo abbiamo appena iniziato, ci si è resi conto che la vela ha una funzione terapeutica, soprattutto con alcune categorie. Parlo ad esempio del disagio psichico lieve, del disagio della disabilità fisica, anche nel lavoro con i tossicodipendenti, per cui diciamo la vela viene utilizzata in una funzione terapeutica e in una funzione educativa. Ad esempio, i ragazzi dei quartieri a rischio, i ragazzi che sono all'interno del circuito penale, sperimentano in barca intanto una dimensione di gruppo, perché chiaramente condurre una barca a vela significa che 4-5 persone devono essere coordinate, devono andare d'accordo, devono fidarsi l'uno dell'altro. Poi anche sperimentano il senso del limite, ma anche il coraggio che ci vuole nell'affrontare il mare quando le condizioni climatiche cambiano, per cui sicuramente aiuta anche a affrontare sentimenti come emozioni come la paura, come trovarsi appunto in situazioni di difficoltà è sicuramente il poter contare su se stessi e sul gruppo. Certo, devo dire che di solito si dice sempre la barca, attenzione, pericolosa, perché bisogna perché si sta in uno spazio angusto per tanto tempo tutti insieme, però forse persone, diciamo, che hanno già sperimentato il carcere sono avvantaggiate su questo, se mi permette una battutaccia. Assolutamente. E poi la cosa più bella è che lo possono fare, diciamo, senza avere delle sbarre davanti, giusto, quindi giusto, guardando l'orizzonte, che è l'orizzonte anche della loro vita e del loro futuro probabilmente. Il 14 novembre 18:30 Arsenale della Marina Regia, siamo a Palermo, questa serata con Licia Albegiani verrà presentata la riedizione delle Isole Lontane. Liscabianca.com invece, se non erro, è il sito per conoscere il progetto. Grazie davvero a Elio Locascia, grazie a tutto il team che sta seguendo questa bellissima iniziativa. Ciao Elio. Grazie mille. Ciao, grazie. Tra l'altro, Carlo, mi piace l'idea di due pensionati che scelgono a un certo punto di cambiare vita, cioè si costruiscono a mano la loro imbarcazione e partono per il giro del mondo. Infatti forse dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori, che se hanno delle storie, diciamo, di questo tipo, di chiamarci per raccontarci di storie, diciamo, di cambio vita, di cambio vita a fine carriera, però diciamo esatto, o insomma verso la fine carriera. Se una chiamerà storia... Napolitano, immaginiamo che chiamerà Napolitano, che cambia vita. Se siete protagonisti di una storia di questo tipo, se avete intenzione una volta raggiunta la pensione di cambiare vita, vale tutto, cioè dall'apro l'agriturismo, un grande classico, un grande classico. In poi, insomma, se avete voglia di condividere con noi la vostra esperienza, 800 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. E tanti messaggi intanto che stanno arrivando su questo Toto post napoletano che hai lanciato, con dei bei nomi anche. Sì, ho visto la Merkel arrivare, ho visto anche la Carrà, giusto? Sì. Oscar Giannino, che salutiamo, vedo che è stato nominato anche lui. Su Twitter hanno nominato anche me, quindi direi che siamo proprio alla frutta. Vale assolutamente tutto. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Federico Taddia e Carlo Gabbardini, 800 24 00 24, il nostro numero verde. Vi abbiamo invitato a chiamarci per raccontare storie di cambio vita, ma una volta raggiunta la pensione, se lo avete fatto, oppure se nei vostri programmi, che è molto difficile in questo momento, perché effettivamente la pensione la si raggiunge così intorno ai 94 anni, di solito uno poi fa dei progetti, diciamo, a brevissimo termine. Poi abbiamo il gioco: in pubblico non appare mai da solo, questo è il primo indizio che abbiamo dato per il personaggio della settimana. Potete tentare, insomma, in palio due biglietti per la mostra di Van Gogh a Milano. Adesso, Carlo, invece abbiamo il piacere e l'onore di parlare di un tema importante, che è il tema della ricerca, il tema della scienza e il tema della mobilità. Per fortuna anche culturalmente un po' il concetto di cervelli in fuga, che secondo me per anni è stato anche un grande alibi per non affrontare davvero il problema, sta evolvendo. Per non gestire quelli che non andavano via, diciamo. Esatto, ci si occupava di quei quattro che andavano via, e uno dice: ma noi siamo gli altri 60 milioni che siamo rimasti qui, avremo bisogno anche noi. Perché la mobilità è un valore aggiunto, la mobilità significa fare esperienza, la mobilità significa fare conoscenza. Il problema reale diventa se, quando la mobilità non è una scelta, quindi sei obbligato, certo, ad andare, oppure non c'è la possibilità di ritorno. Sono temi molto cari al nostro ospite, che domani anche sarà protagonista di un'importantissima giornata intitolata Il cuore della scienza, le storie degli scienziati che scelgono l'Italia, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, una giornata intera proprio dedicata a questo tempo, organizzata dalla Fondazione Giovanni Armenise Harvard. Diamo il benvenuto alla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo. Buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Si può fare è il titolo del nostro programma, ma credo che si può fare da sempre sia anche uno dei suoi motori, vero, nel giorno per giorno. Ma sicuramente bisogna mettersi in gioco, impegnarsi e avere una visione un po' lungimirante. Visione lungimirante che poi si fa con le storie, che è un po' anche il cuore, come ho detto, della giornata di domani. Storie di scienziati. Si parte e si passa dalle storie personali per cambiare davvero le cose? Ma ovviamente tutte le grandi cose sono fatte da singoli uomini che le pensano, che le promuovono, che organizzano persone intorno a loro, che passano il testimone, quindi c'è tantissimo che si può fare su questa terra, lo dico sempre. E un esempio per me illuminante è proprio quello del conte Giovanni Armenise, che alcuni anni fa ebbe questa fenomenale intuizione di fondare una fondazione, un ente che si occupasse di portare scienziati in Italia da tutto il mondo. Mm-hmm. E domani appunto l'evento per me è una celebrazione, per dire che è possibile appunto instaurare un procedimento inverso. La fondazione ogni anno finanzia alcuni scienziati, li sceglie in modo oculato, anzi devo dirle che proprio settimana scorsa la fondazione con i suoi membri scienziati da tutto il mondo si è riunita per identificare i nuovi due vincitori, che possono di nuovo arrivare da tutto il mondo e non devono essere necessariamente italiani. Sì. Sono stati scelti e verranno annunciati nelle prossimi giorni, prossime settimane. Non ce li dice un'anteprima. Non posso assolutamente, ma sono tutte storie bellissime di persone davvero che vogliamo avere qui. È come accendere un ricercatore, un'assegnazione di questo tipo per aprire un laboratorio, perché è anche un investimento ingente che la fondazione fa in queste persone, e domani sentiremo da ciascuno di loro che cosa ha reso al paese, al mondo e alla scienza quell'investimento. E insomma c'è davvero da rimanere straordinariamente soddisfatti e da sperare che qualcun altro voglia emulare questo esempio. Perché sono storie di persone che poi diventano storie di gruppi di ricerca e poi diventano storie di ricadute anche nella nostra quotidianità. Probabilmente anche questo, vero professoressa, che non si racconta abbastanza. No, infatti, anzi, guardi, le dirò che la cosa geniale, secondo me, di questo investimento, di questa fondazione, che non solo sceglie i migliori, ovviamente, tra quelli che applico, le assicuro che la competizione è ferrea, e noi addirittura venerdì proprio ci siamo trovati, io faccio parte del board, per interrogare, quindi c'è proprio un'intervista di quelli preselezionati e poi c'è alla fine la selezione. E la cosa geniale secondo me è che la fondazione ha deciso da anni, il conte appunto Giovanni Armenise, e ora lo continua il figlio Giampiero Armenise, Auletta, la cosa geniale è che questo è un investimento in conoscenza pura, cioè questo grande imprenditore che era il conte Auletta, Armenise Auletta, che è stato anche il primo a fondare una prima ditta farmaceutica che produceva la penicillina nel dopoguerra, si è accorto che per avere domani dei prodotti traslabili, quindi una medicina, una terapia, devi allargare il raggio d'azione sulla conoscenza pura, cioè tu devi conoscere sempre di più, tu devi investire su ciò che non sappiamo, non su ciò che sappiamo oggi. Quindi questi ricercatori che arrivano, che hanno storie nuove perché sono sparse in tutto il globo, appunto sono persone che sono abituati al challenge internazionale, sono sempre stati in ambienti internazionali, quindi portano in Italia l'estero, oltre alle loro idee, oltre alla loro forza, costruiscono laboratori, quindi reclutano giovani italiani o stranieri, competono per altri bandi internazionali, quindi acquisiscono ulteriori finanziamenti, producono dei risultati che si rendono pubblici, quindi quei risultati poi li usano tutti gli altri ricercatori in Italia e nel mondo. Insomma, creano veramente, cioè io dico, si accende un nuovo laboratorio, si accende un nuovo ricercatore in Italia. Io non sarò mai grata abbastanza a questa fondazione per aver avuto quella grande intuizione per perseverare in quella direzione. La professoressa poi si sente sempre, no? Vibra di passione quando parla di ricerca, quando parla di scienza, quando parla giustamente della sua vita e la vita di tutti i ricercatori che collaborano con lei. E mi sembra bellissimo questa questione di investire su ciò che non sappiamo, perché troppo spesso si tende così a investire su cose sicure. È ovvio che nel momento che si parla di conoscenza si investe su qualcosa che non si sa, e quindi non si sa dove si va, ma però è importante provarci. Professore, un'ultima domanda: la scienza, l'abbiamo detto mille volte, per fortuna non conosce i confini, è oltre, è più avanti rispetto al concetto proprio di confini, però ecco, l'Italia, poi ci sono però le nazioni, c'è una diversità anche di approccio culturale, qual è il valore aggiunto dell'Italia oggi, del venire a fare ricerca in Italia? Ma è interessante questa domanda sui confini, perché le assicuro che quando stai in un laboratorio a Milano, in Germania, in Australia o in California non te ne accorgi assolutamente. Quindi ecco, noi questa cosa dei confini, anzi mi piace come immagine, perché insomma io che amo l'Europa, insomma, tendo a dire che la scienza sia anche un modo per integrare le nazioni, soprattutto nella nostra Europa. Ma cioè, il valore. Attenzione, è caduta la linea, ma la recuperiamo con rapidità. La recuperiamo al volo. E intanto stanno arrivando i primi messaggi al 349-238-6666 sui cambi vita dal momento della pensione. Non so se li hai colti al volo, ce ne sono alcuni che sono veramente belli. Tipo, dirigevo una compagnia alberghiera, sono appassionato di vela da sempre. Dopo due traversate atlantiche lo scorso giugno ho mollato tutto ed ora vivo principalmente in barca. Quindi ha scelto di vivere in barca, vedi? Però è già un passaggio. Condividendo con amici le spese, dice però, perché giustamente uno dice: come fai a vivere in barca da solo? È il concetto di sharing. Abbiamo recuperato la professoressa Cattaneo, eccoci qua, professoressa. Stavamo parlando del valore aggiunto, insomma, del vivere, del lavorare, far ricerca in Italia, insomma, è ovvio che io, insomma, sono per quello, cioè mi piace far scienza nel mondo, mi piace far scienza nel mio paese, anche per il mio paese. Io vedo come valore aggiunto il fatto che, insomma, questa è stata la patria, la terra dei grandi illuminati pensatori e scienziati. Insomma, pensiamo da Camillo Golgi, premio Nobel nel 1906, fino, insomma, alle grandi scuole di fisica, di genetica, di istologia, di neuroscienze, con Rita Levi-Montalcini, insomma, che ci ha donato tante delle sue forze e delle sue energie. Quindi, insomma, l'Italia è da sempre il paese della... è stato per decenni, insomma, io voglio crederlo, che possa tornare a essere quel grande paese dove la scienza è nata e si è irrobustita. Certo che abbiamo difficoltà, no? Quindi il valore aggiunto forse sta nel pensare che c'è un passato grande da risvegliare in questo paese e nel fatto anche che miracolosamente, veramente miracolosamente, nonostante il disinteresse verso scienza, ricerca, questo paese è capace di produrre dei risultati straordinari. Settimana scorsa appunto leggevo che nonostante i bassissimi investimenti in ricerca applicata e in ricerca di base, il nostro paese è addirittura settimo nella produttività scientifica, cioè significa, e noi li conosciamo. E questa è una buona notizia. Ci sono straordinari ricercatori. Ecco, è anche un po' di rabbia, perché io dico, se si facesse di più, le assicuro che questo paese decollerebbe, perché la scienza lega il paese ai fatti. E io invece temo che si sia interrotto nel nostro paese quella cinghia di trasmissione tra fatti e cittadini, tra fatti e istituzioni. E sembra quindi un paese dove la realtà non esiste mai, invece no, esiste, e domani sarà un altro momento per ricordare questo. Mi sembra una bellissima lezione questa, devo dire. E poi è vero, come diceva prima Federico, che è molto bella la passione che lei ci mette. Siamo qua, Federico ed io, che sembriamo due studenti in ascolto della professoressa, ed è domenica, quindi devo dire che è un grandissimo successo. Grazie davvero alla professoressa Elena Cattaneo, senatrice a vita. Grazie davvero per il grazie tempo che ci ha concesso. Grazie, buona domenica. Sì, insomma, questa è l'Italia di Si può fare. C'è molto bella la cinghia di trasmissione tra fatti e cittadini, questa me la tatuo. Tatuala, e torniamo alle nostre bassezze, torniamo al gioco. Angelo da Milano, ciao Angelo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo dato un indizio: in pubblico non appare mai da solo, come così, per trovare, beccare il protagonista della settimana. Su chi punti? Intanto non ho sentito gli indizi, comunque... È solo questo, quello che gli abbiamo appena ridetto, è l'unico indizio che abbiamo dato per allora, il momento. Io dico il microfono. Il microfono? Come mai? Se c'è qualcuno, c'è un microfono, che ne so, è venuta così. Oggettivamente no, è interessante. Ma qual è la notizia legata al microfono di questa settimana? Perché noi cerchiamo un personaggio, diciamo, al quale solitamente è legata una notizia nella settimana che si è appena svolta. Allora rimandato a settembre. Va bene. Abbiamo appena sentito la professoressa, quindi va bene, la rimandiamo a settembre e aspettiamo che chiami di nuovo. Arrivederci. Grazie. Buona domenica. 800 24 00 24 per giocare con noi. In palio due biglietti per la mostra di Van Gogh a Milano. Ma diamo un secondo indizio? Diamo un secondo indizio. Ce le hai? Ce le hai tu, vai tu. Ce l'ho io. Allora, il secondo indizio che vogliamo dare è: ha sempre l'ultima parola. Oh, vuoi vedere che era il microfono davvero? Perché in realtà noi non lo sappiamo, lo estraiamo in una busta ovviamente tutte le volte. Ha sempre l'ultima parola in pubblico, non appare mai da solo, sono due indizi dell'identikit, del personaggio in senso lato, appunto con cui stiamo giocando questa domenica. Sta a voi tentare di beccarlo, noi siamo qua. Si può fare cronache da un paese migliore. Ma quando è sera e sera ti sento masticare, quando è sera ti ammazzi con i pinghi, amore mio ti voglio bene come sei, sei eccitante al punto che ti sposerei. 90 chili di libidine e bontà. A noi piace questo pezzo, queste cose ce lo ascoltiamo tutto. Tutto, tutto lo vogliamo sentire. Vorrei tranquillizzare un ascoltatore che ha mandato un SMS anonimo con scritto: ma Maurizio ha cambiato lavoro? No, Maurizio è ammalato, ma tornerà tra noi. E soprattutto ha cambiato nome, perché scrive Maurizio, in realtà si chiama Alessio. E infatti ha fatto così un contaminato nome e cognome. 800 824 0024, 349 238 6666 per i vostri SMS. Carlo, eccomi qua. Ti porto a cena. Però, questo è mi sembra una bellissima proposta. Sì, vado a fare la doccia. Sì, vai a fare la doccia. Ti porto a cena, ma in famiglia. Ti presento subito. Ah, subito, subito così. Così. Allora, parliamo di cena in famiglia. Tu, che ricordi hai delle tue cene? Cioè, che momento era per te la cena? È un momento molto bello, molto importante. Perché cenavamo, io ho quattro fratelli, quindi più me cinque, più, quindi cenavamo sempre in sette. Aspettavamo che mio padre tornasse, che tornava spesso tardi o in ritardo. Solitamente ci diceva: voi iniziate a mangiare il primo che io arrivo. Okay. Perché, come adesso credo che andremo a raccontare, mio padre ci teneva moltissimo affinché noi mangiassimo tutti insieme e diciamo manteneva un sacco di regole delle quali parleremo adesso. E andiamo a vedere se sono regole che sembrano consuetudini, un po' i consigli della nonna, no? I bei consigli della nonna. Sì, sì. Invece sono consuetudini che hanno ottime basi e hanno ricadute nella vita personale, nella vita familiare, ma anche nella vita lavorativa. Tutto questo è scritto nel libro I bravi manager cenano a casa, perché mangiare in famiglia fa bene a tutti, appena pubblicato da EMI. L'autore è qua con noi ed è lo scrittore, medico e psicoanalista Luigi Ballerini. Ciao Luigi. Ciao Federico, ciao Carlo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, è un libro dal sapore antico o invece è un libro d'avanguardia? Nel senso, quale provocazione stai lanciando? Questi bravi manager perché dovrebbero cenare a casa? Guarda, ciò che è antico adesso è diventato avanguardia, per cui forse hai assolutamente ragione. No, mi è piaciuto tantissimo, permettimi, quando hai fatto l'invito, ti porto a cena, quel vado a fare la doccia è meraviglioso. Quel vado a fare la doccia è meraviglioso perché dice di un pensiero che è lì, che dice: mi devo preparare, certo. Mi preparo per un appuntamento. Allora, è proprio questa la questione. Recuperare il momento della cena come un appuntamento privilegiato con chi c'è caro, no? Perché poi se sarà il marito, la moglie, i figli saranno loro, se saranno le persone con cui viviamo, se saranno gli amici, chi vive in un appartamento, ma è proprio l'idea dell'avere il momento della cena come un appuntamento cui fare il possibile per essere presente, perché è un appuntamento che fa bene a noi e fa bene agli altri. Per cui il titolo un po' provocatorio, I bravi manager cenano a casa, ha anche a che fare col fatto del fenomeno del workaholic, che è l'intossicato di lavoro, che alla fine rientra 9, 9 e mezza, 10, perdendosi l'occasione di una cena personale sua, degna e fatta bene, ma anche di questo momento di convivenza con le persone con cui vive. Tra l'altro Luigi, che è multitasking, lui appunto è scrittore, è medico, è psicoanalista e lavora anche con i top manager, quindi hai a che fare, no, con questa categoria di persone, e mi piace pensarti mentre dici a un top manager: guarda che questa sera devi andare a cena a casa tua, perché ti fa bene anche sul lavoro, non solo nei tuoi rapporti personali in famiglia. Andiamo ai consigli, c'è una sorta di... Sono bellissimi, dobbiamo assolutamente dirli. Di tavola, dei dieci tavola nel senso apparecchiata, esatto. dei dieci comandamenti. E quali sono questi consigli molto pratici, Luigi? Ma guarda, tra i consigli ce ne sono diversi, una è una sorta di decalogo. A me piace proprio quello del... che ci sono certe regole che diamo a tavola, no? Soprattutto quando abbiamo dei più piccoli, che sembrano quelle regole, siccome l'abbiamo sentito parlare prima, ci sono delle regole buone e delle regole su cui noi dobbiamo stare un pochino attenti. Ad esempio, pensa a quel si deve finire tutto ciò che si trova nel piatto. Io poi sento tantissimi genitori, ad esempio, che parlano di questo, no? Allora, anche qua cosa vuol dire questo? Noi possiamo davvero forzare qualcuno a mangiare, no? Possiamo qual è il valore? A volte ci sono delle regole che diventano astratte rispetto allo stare a tavola e perdono il senso invece che è quello di favorire il rapporto. Come pensate, a tavola si sta composti. Quanti bambini o quanti ragazzi sono, usiamo il termine forte, umiliato perché a tavola non va niente, no? Pensa a certe piccole maldestrie del rovesciare un bicchiere mentre servo l'acqua, che può diventare una tragedia familiare e inquinare, ammorbare e intossicare l'aria tale per cui poi abbiamo tutti il muso lungo. E poi l'altra questione è, io cui tengo particolarmente, le nostre protesi elettroniche, no, che sono i cellulari, che noi diciamo agli altri, no, spegni, cosa, di fatto è una tentazione che abbiamo anche noi quelli di portarceli a cioè una volta si diceva bisogna spegnere la TV tavola, invece adesso bisogna spegnere un sacco di cose. Esatto, sì. Infatti in realtà inizierei più che in queste regole che sono più difficili effettivamente anche opinabili nel momento in cui uno dice mangia tutto quello che c'è nel piatto diventa anche un'educazione, diciamo, a non servirsi troppo, però le regole ai principi mi sembrano il fatto di dire che tutta la famiglia sia presente, questo per mio padre è sempre stato importantissimo, e poi l'altra cosa, la televisione è assolutamente spenta, perché sennò si sta insieme a guardare la televisione, quello è un altro lavoro. Poi spegnere... è un altro lavoro, perché come dici tu, il rischio qual è? Che sarà lei a parlare, no? Esatto. Lei a parlare, e quindi noi saremo tutti lì, a volte anche persi nei nostri pensieri, a sentire parlare qualcos'altro e non qualcun altro, qualcos'altro con cui poi non possiamo controbattere o ribattere o avere un argomento di discussione, per cui alla fine ci alziamo da tavola dove nessuno si è più detto niente, ma abbiamo assorbito dei contenuti che ci ha dato qualcun altro. Infatti, se uno invece ci tiene molto ad ascoltare il TG, tanto vale mangiare alle 8:30, mangiare dopo il TG e commentarlo tutto insieme a tutta la famiglia, se no, se si sta lì semplicemente ad ascoltarlo, come giustamente dice lei, va a finire che parla la televisione e noi stiamo zitti. Sì, ma anche la questione dell'orario, no? Pensiamo al fatto che ci si può aspettare. No, perché tra l'altro la vita è diventata dinamica e complessa per tutti, per cui c'è qualcuno avrà gli allenamenti, qualcuno avrà il lavoro, qualcuno alla palestra, qualcuno ha un corso, ma l'idea è proprio di fare il possibile per aspettarsi, e se stasera mangiamo anche alle 20:30 o alle 20:45, non, no, come a casa nostra si mangia alle 8 o alle 7:30, è proprio dare la preferenza a quel momento. Luigi, no? Adesso ci fermiamo al momento del GR, però subito dopo il GR ci ritroviamo, perché voglio continuare, andiamo ancora a spulciare un po' il decalogo, ma poi invito i nostri ascoltatori, perché il momento della cena è un momento dove ognuno ha anche dei propri riti, quindi se voi avete un rito particolare, se avete un aneddoto anche bizzarro, curioso, proprio sull'importanza del cenare insieme, un'Italia migliore forse passa anche proprio dalla tavola, da queste, anche perché io ho un sacco di domande sul punto 10, quindi a dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento. Mi appartengono. Fuori è magnifico, sì, ma tu un po' di più. Questo è Magnifico di Fedez, che salutiamo con affetto, saluto il caro Fedez, ed è la nostra canzone scelta dall'ascoltatore Alessandro Prisco. Vi ricordiamo che potete segnalarci il vostro Si può fare in musica e poi noi metteremo in onda la canzone che ci segnalerete. Lo potete segnalare sia sui nostri social, su Facebook, sia sul nostro Twitter che è @sipuofare24, sia sul Twitter di Alessio Maurizi che è @alemaurizi, sia sul mio che è @carlogabardini. Poi pro tempore potete anche mandarlo al Twitter di Federico Taddia, che è @FedericoTaddia, che è qui con me a sostituire Alessio Maurizi, appunto pro tempore. Potete consigliare delle canzoni che sono il vostro Si può fare in musica. È un po' sorrido perché questo momento del rientro tu non te ne accorgi, ma ti compare sempre una piccola goccia di sudore, ti vedo teso. Questo rientro dalla canzone è vero, perché è un po' il mio momento e sono molto contento, diciamo, grazie all'assenza di Alessio Maurizi per la prima volta ho fatto io il rientro e adesso ormai è diventata un'abitudine. Se vuoi ci metto una buona parola che te lo faccia fare anche al suo rientro, tu puoi rientrare dalla canzone, siccome Alessio su questo potrebbe cedere. Ma io sono uno stagista in prova, quindi capito. Insomma, con calma mi prendo tutte le soddisfazioni, diciamo. Dopo sei mesi ho detto per la prima volta 800240024, che vi ricordiamo è il numero al quale chiamarci per dirci il personaggio della settimana, oppure per raccontarci che cosa... storie di pensionamenti, ne stanno arrivando via sms al 349-238-6666. Ma fra pochissimo ancora con noi qua Luigi Ballerini per parlare del momento della cena, quindi se avete storie, aneddoti ma anche domande, no? Per prendere spunto dal suo libro I bravi manager cenano a casa, per capire se ci sono riti, se ci sono consuetudini, se ci sono storie anche divertenti legate al momento della cena. 800-24-0024, scusami, niente, ma figurati. Infatti c'è anche già un bellissimo messaggino che dice: non condivido, dopo lo gireremo a Ballerini, non condivido, lo psichiatra giustifica lo spreco di cibo e la sciatteria comportamentale dei bambini. Esagerato. Quindi... Marco, su, andiamo a giocare che stanno arrivando le telefonate, abbiamo dato due indizi per beccare, carpire il personaggio in senso lato della settimana. I due indizi dati finora sono: in pubblico non appare mai da solo e ha sempre l'ultima parola. Enzo da Bari, ciao Enzo. Pronto? Ciao Enzo. Sì, ciao. Senti, secondo me è l'Eco, è CO. Come mai? Ma Umberto Eco o Eco? No, l'Eco. L'Eco sonoro. Te l'ha fatto anche. E qual è la notizia legata all'Eco di questa settimana? No, perché a me la notizia non ho la minima idea. Però mi ha molto colpito il fatto che ha l'ultima parola, quindi conseguenza. Giusto. Giusto, è una vecchia barzelletta quella di avere sempre l'ultima parola, che in montagna con l'Eco uno dice, quindi è sempre l'Eco che ha l'ultima parola. Purtroppo non è questo il personaggio, però ci complimentiamo, diciamo, per la fantasia. Andiamo a Padova da Lorenzo. Ciao Lorenzo, buona domenica. Ciao. Buongiorno. Cosa stai facendo nel frattempo? Scusa, sto guidando. Ah, stai guidando, okay, attenzione. Non dovrei. No, esatto. Ho sbagliato. Spero che tu abbia il viva voce. Di sì. Mi hanno detto di non metterlo, quindi no, ma sono fermo, sì, sto fermando. Perfetto, fermati. E dici, perché cosa chiamavi? Per la risposta sul personaggio. Ottimo, siamo tutti orecchi. Il libro. Oggi vanno molti personaggi astratti, devo dire. Perché abbiamo detto che è un personaggio in senso lato, quindi hanno colto sfumatura, esatto, questo suggerimento esatto. Sfumato. Perché il libro, Lorenzo? Beh, ha sempre l'ultima parola, sicuramente. Sì. E poi difficilmente va da solo, c'è sempre qualcuno che lo porta, insomma, ecco, lo presenta. giusto. È vero, però non è. Però manca un po' il fatto di cronaca, diciamo. Tu dici, ci no, sarà qualche fiera, non lo so. No, Book no, City è settimana prossima, quindi. Purtroppo non è questo il personaggio, però ti ringraziamo di aver telefonato. Puoi rimetterti in moto, vai. Ciao Lorenzo, andiamo a Padova da Dulcinea. Ciao Dulcinea. Buongiorno. Bel nome impegnativo? È un nome bellissimo, lo so. Ma come ti chiamavano? Le tue amiche come ti chiamano? Come l'hanno abbreviato? Nea. Cioè, potevano scegliere fra Dulci e Nea, hanno scelto Nea. Meglio, così non ci sono delle brutte Y, che sennò sicuramente qualche giovanotto avrebbe infilato a caso. Dulci, Nea, su cosa punti? Hai la risposta esatta per il gioco? Io così a caso. Vittorio Sgarbi può essere? Vittorio Sgarbi, perché in pubblico non appare mai da solo? mi ricordo che all'inizio l'esordio era sempre con qualche bella donna e poi parla sempre. All'ultima parola. E qual è la notizia legata a Vittorio Sgarbi di questa settimana? Non saprei. Beh, e infatti non è lui il personaggio, forse è per quello. Forse è per quello. Comunque ti ringraziamo moltissimo di aver telefonato. Ciao, grazie, Dulcinea, grazie. Ciao, buona giornata, buona domenica. Secondo me bisogna dare immediatamente il terzo indizio. Vai. E allora noi diciamo che fa parte di una coppia consolidata. Quindi il nostro personaggio della settimana, oltre ad avere una notizia legata a questa settimana, gli indizi sono: in pubblico non appare mai da solo, ha sempre l'ultima parola e fa parte di una coppia consolidata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Rosalina, Rosalina. L'avevamo detto che ci piaceva e quindi ormai per noi Rosalina fa rima con cena, fa rima con ballerini. Con ballerini soprattutto, è diventata la sua sigla direi. I bravi manager cenano a casa, un decalogo che stiamo leggendo insieme. Aspettiamo anche i vostri racconti legati alla cena, che è un momento critico, un momento a volte anche di stanchezza, momento che può essere anche difficile, vero Luigi? Cioè c'è anche l'altra faccia della medaglia, un momento importante ma può essere anche un momento di scontro. È un momento che può diventare, sì, che invece di essere l'occasione di incontro diventa proprio un momento di scontro. Ci sono delle caratteristiche comuni di quando avviene momento di scontro. Ha ragione il nostro ascoltatore ad accusarmi di sciatteria, invito a sciatteria comportamentale, nel senso che quando diventa momento di scontro? Quando prevale la regola sul rapporto. Allora, il motivo per cui io non sarò sciatto a tavola, ma neanche se mangerò da solo, neanche se sono solo con me stesso, è proprio perché il non essere sciatto non è per l'applicazione di una pura regola astratto di un doverismo, quanto per il fatto che tengo presente che c'è qualcun altro con me. E allora il mio comportarmi bene, le regole del galateo sono funzionali a che noi stiamo bene insieme e che quindi il nostro rapporto mentre mangiamo funzioni. Quindi è proprio una questione relazionale, difatti no, avevate parlato del decimo punto del decalogo. Eh sì, infatti giustamente lei adesso dice: anche se sei da solo devi mangiare sempre con un tu. Ecco, devo ammettere che io condivido tutte, anzi condivido anche questa di regola, ma è quella che non riesco ad attuare. Effettivamente quando si è da soli, prepararsi la cena con cura e in qualche modo volersi bene è una cosa che io non sono in grado di fare, quindi ho bisogno di consigli. Come si fa a aver voglia veramente di mettersi a cucinare in maniera diciamo corretta nel momento che si è da soli e non mangiare delle patatine davanti alla televisione con della maionese? Allora, la tentazione patatine e maionese c'è, e va anche bene farlo, adesso non dobbiamo esasperare le situazioni, ma un conto è che sia occasionale o episodico, un conto è che sia sistematico, perché la questione del mangiare fa parte di quel prendersi cura di sé, che prendersi cura di sé anche per quanto riguarda questo moto, perché il mangiare è uno dei moti del corpo. Allora, come mi lavo, come mi preparo, come mi pettino, come faccio tutti gli altri moti, anche il moto del mangiare, anche quando sono solo, ma si tratta di dettagli, si tratta di mettere giù una tovaglietta americana mentre sono davanti alla televisione. Certo, no, ma condivido che proprio, siano... È quel pensiero che fa sì che sono da solo, ma non sono solo, nel senso, cioè ci sono io, potenzialmente potrebbe venire qualcuno. Teniamo presente che il mangiare è sempre un atto di relazione, l'esperienza che facciamo, proprio comune, è che spesso quando siamo in compagnia mangiamo di più. No, questo è un fatto che accade a tutti. Beh, insomma, io mangio parecchio anche quando sono solo. Però a volte mangiamo meglio quando siamo in compagnia. No? Giustissimo. Perché... è che io purtroppo vivo sempre la questione che nel momento che sono da solo dico: ma allora non c'è la mamma, posso fare quello che voglio. Solo che questa cosa, come dice giustamente lei, va bene una volta, va bene due volte. Dopo 10 anni che uno vive da solo, magari dovrebbe farsene una ragione e dire: vabbè, anche se non c'è la mamma, ci si può mettere a cucinare in maniera sana e mangiare con calma invece che in piedi e pensare sempre di essere a una festa. Sì, sì, si tratta di acquisire proprio un gusto personale rispetto a questo, no? del fatto che mi posso anche svuotare la busta di insalata già lavata, non c'è nessun problema, no? Certo. Però posso non mangiare. Però almeno togliere la busta, diciamo. Esatto, la tolgo dal sacchetto, me la condisco, mi siedo. Perché io la mangio spesso nella busta, infatti è molto comodo questo, per chi manda gli sms sullo spreco è molto comodo perché non si spreca niente, perché poi la busta la sciacquo e la rimetto in frigorifero sempre piena ancora di insalata. A questo momento appunto di casa Gabardini. Comunque, non è male. Vengo a mangiare da lei perché la cosa bella è che noi abbiamo il titolo giustamente del suo libro è "I bravi manager cenano a casa" e il libro è di Luigi Ballerini, quindi noi abbiamo scritto "I bravi manager cenano a casa" di Luigi Ballerini, quindi verremo tutti a cena a casa sua. Ma io vi aspetto. Io non sono un bravo manager, ma diciamo mi infilo, faccio l'imbucato. Grazie davvero, ricordiamo Emi, la casa editrice "I bravi manager cenano a casa". Il consiglio che io scelgo dei 10, quello che mi è piaciuto di più è anche non stare lì a menarsela con mille domande: cosa hai fatto oggi, come è andata a scuola, cioè, molto giusto, visto, no all'interrogatorio fatto... sia sì. La relazione, sì, perché sì. La cosa bella è i genitori, punto 5 è i genitori raccontano di sé ai figli, lavoro, giornata, incontri, e invece che il solito interrogatorio che è il punto 7, quindi no a come è andata, cosa hai fatto, cosa hanno detto, dimmi i voti. Grazie Luigi, buona cena, vale come... Beh, buon pranzo di domenica direi a questo punto. Perfetto, grazie, ciao Luigi. Ciao, arrivederci, grazie. Ciao. Arrivederci, grazie. Andiamo a giocare, 800 24 00 24, un paio di telefonate. Dalla provincia di Ferrara arriva Simone. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il personaggio della settimana per me è Obama. Obama. La notizia direi che è quella del Senato, giusto? Sì, esatto, della perdita del Senato. Esatto. Quindi in pubblico non appare mai da solo, no. Fa parte di una coppia consolidata. Michelle. Immaginiamo. Esatto. Ha sempre l'ultima parola? Sempre l'ultima parola. Sempre. Direi che dopo queste elezioni non ce l'avrà molto l'ultima parola, se possiamo dire. Però effettivamente rispondeva a tutti i nostri indizi, ma non è lui, purtroppo, no. Il nostro personaggio della settimana. Alessandro da Rimini, ciao Alessandro. Ciao, sono Alessandro da Rimini, buongiorno, ciao. Ciao. Secondo me è Adriano Celentano. Adriano Celentano. Perché? Perché la coppia consolidata con Claudia Mori, e Claudia Mori, la notizia è venuta fuori che vorrebbe morire prima lei che Adriano Celentano. Questa me l'ho persa anch'io. Sì, ha detto così? Sì, c'è stata la notizia in settimana, credo, adesso non so dire se è lunedì o martedì, però è venuta fuori che Claudia Mori ha detto che vorrebbe andarsene via prima lei che Adriano Celentano. Un grande gesto d'amore, diciamo, classico di molte sì. coppie. Purtroppo sì, non è il nostro personaggio della settimana, Celentano, e nemmeno Claudia Mori. Porca miseria, c'è rimasto niente, male. Niente. Vabbè. Ciao. Mi mangio il mio gratè allora, buon pranzo a tutti. Mi mangio il mio gratè è il saluto più, bello, più bello della di storia sempre. Della radio, esatto. te lo sei preparato tu? Che cos'è il tuo gratè, scusa? Ho fatto io ieri sera. Era preparato io con tutte le dovute attenzioni. Ah, però, e mangi da solo? No, questo lo porto a mangiare insieme ad altre persone. Ieri sera quello che ho fatto io l'ho assaggiato io da solo, mangiato da solo. Luigi Ballerini sarebbe molto contento. Giustamente questo è un buon consiglio, è cucinare per sé doppio, diciamo. Il giorno dopo portare il cibo alla cena o al pranzo della domenica e mangiare quello che si è preparato il sabato, anche se si è da soli, e quindi con attenzione. Grazie. Nel frattempo, insomma, raccontiamo anche dietro le quinte. Ma sì, giusto. Ho sbagliato a spingere il tasto. C'è Filippo dall'altra parte del vetro che è sobbalzato, un po' perché a quest'ora lui inizia ad avere fame, si parla di pranzo. È giusto, ha ragione. E ho sbagliato il tasto, ti ho spento, Carlo, si chiama mobbing radiofonico. Ma non è assolutamente un problema, perché di solito sono io sono il terrore giustamente di chi sta in regia, perché sbaglio tutto, non so far partire i microfoni, urlo, non parlo dritto dentro il microfono, quindi ci terrei a precisare che per qualunque problema anche tecnico che ci sia è assolutamente colpa mia, è responsabilità mia, perché sbaglio un sacco di cose, ma lentamente imparo, sono qua da un anno e mezzo e per esempio già so dire 800 24 00 24, insomma piano piano. Numero verde per giocare, numero verde che ha composto dalla provincia di Rimini, Rosalia, ciao Rosalia. Buongiorno. Buongiorno. Sei in viaggio? Abbassa la radio per favore. Sei in viaggio verso dove? Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo. Hai anche un suggeritore, sento. È la festa dei vecchi. È la festa dei cornuti, praticamente. Come la festa dei cornuti? È una festa, San Martino è una festa famosa, una sagra, insomma. Ma... sotto l'arco c'è questo... Ma chi parla... Ma chi parla è l'amante o il cornuto? Tutti e due. Ah, perfetto. E quindi, per che cosa chiamavate? No, chiamavo per la faccenda della coppia, che penso non sia quella, comunque io lo dico dopo. La coppia è Ficarra Picone per me. Ficarra e Picone. Allora, in pubblico non appare mai da solo, in effetti è una coppia, ha sempre l'ultima parola. No, però noi cerchiamo un personaggio e poi che sia anche una coppia consolidata. E qual è la notizia legata a Ficarra e Picone questa settimana? Il film? È uscito adesso. Giusto. Niente, però purtroppo non sono loro. Però eravamo molto, molto curiosi di capire questo vostro viaggio. Tra l'altro, parlando di coppia, volevamo capire se siete fidanzati, se invece siete cornuti, se è l'amante. Non abbiamo capito esattamente. Però se volete non indaghiamo. No, siamo sposati di lunga data, insomma. E andate insieme alla festa dei cornuti, cioè poi ognuno se la cava da solo? Sì. L'importante è passare sotto l'arco quando non tira vento, perché se tira vento le corna si muovono e quindi non è un buon segno. Perfetto, abbiamo dato anche la regola della sagra dei cornuti. Grazie mille, arrivederci, buona domenica. 800 24 00 24 per giocare con noi. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? She said to me, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be. Questa musica che ormai abbiamo imparato a conoscere ogni domenica, musica che abbiamo scelto, che è stata scelta per accogliere Massimo Temporelli, presidente di The Fab Lab Make in Milano, questo luogo dove si sperimenta il futuro. Massimo, ti piace come immagine? Beh, mi piace la sigla e mi piace anche l'immagine. Ciao Massimo. Ciao. Con Massimo Temporelli andiamo così alla ricerca dei mestieri del futuro, che però hanno già un presente. Sono mestieri che di solito ci becca talmente tanto che il mestiere di cui parla Massimo Temporelli da noi la domenica, poi entro il mercoledì di solito va in home page di tutti i quotidiani, i maggiori quotidiani. È successo così per i droni, è successo così, quindi siamo tutti orecchi. Cosa c'è? Bene. Allora, oggi ne abbiamo ben due, se siete d'accordo, che sono l'economista della felicità, bellissimo romantico nome, e il social street manager. So che del social street o della street manager street ne avete già parlato. Sì, ne abbiamo parlato spesso. È un grandissimo movimento affascinante che appunto parte dal basso. Quello che credo che succederà a breve, anche se gli organizzatori, i fondatori di questa bellissima organizzazione non lo prevedono, è che a un certo punto ci voglia un manager per gestire queste grandissime comunità, no? Perché adesso via Maiocchi a Milano adesso ne conta ad esempio quasi un migliaio di persone che aderiscono a queste pagine Facebook che riuniscono le persone che abitano nella stessa zona, e queste si autogestiscono, si passano il babysitteraggio piuttosto che curare i cani o i gatti, o addirittura qualcuno presta la lavatrice agli studenti della zona. Ma aiutano anche a cercare casa? Aiutano anche a cercare casa, è nato credo proprio per questo, o forse per integrare il figlio del fondatore di Bologna, appunto di via Fondazza. No, lo dico perché sono sfrattato, sto cercando casa e devo proprio cercare in via Maiocchi praticamente, perché abito lì, allora, quindi adesso mi iscrivo e chiedi aiuto. Ecco, diciamo che se vi devo immaginare un lavoro del futuro in quest'ambito, credo che un manager, una persona in grado di gestire tutte queste informazioni su un nuovo strumento che è quello del social network di Facebook, secondo me nel futuro potrebbe esistere e potrebbe essere un bel lavoro anche ben retribuito, perché poi sono veramente tante le persone che vivono in una strada. Un po' tutti che vivono in una strada, sì. Bene o male. Però siamo troppo curiosi dell'economista della felicità, perché diciamo che se il social street manager possiamo immaginarci che cosa faccia, invece l'economista della felicità ci lascia molto curioso. Allora, Massimo, scusa, siamo curiosi, così tanto curiosi che aspettiamo un minuto perché ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare l'economista della felicità, ci risponderà Massimo Temporelli, The Fab Lab Make in Milano. Massimo, che cos'è, soprattutto come campa l'economista della felicità? Allora, qualche mese fa un amico, Luciano Canova, che è un economista, insegna alla scuola Mattei della ENI, quindi un professionista valido e assolutamente geniale, mi invita ad iscrivermi a un'app, a scaricare un'app, si chiama Happy Meteo. E quest'app ogni 4-5 ore mi manda una domanda e mi chiede quanto sono felice o mi fa delle domande correlate alla felicità, alla mia felicità. Allora, incuriosito da questa cosa, perché un economista si dovrebbe interessare alla felicità di un individuo o di più individui, l'ho invitato proprio nella sede di The Fab Lab in via Santa Marta a fare una conferenza su questa cosa, e ci ha spiegato quella sera che in effetti l'economia è una cosa molto più complessa che quella di misurare il PIL di un paese, il fatturato di un'azienda o quanto guadagna una singola persona. L'economia deve riguardare una cosa più vasta, che è il benessere uno di un'azienda o di un paese o di un individuo. E misurare, come misurano gli economisti, dei dati e analizzarli è molto complesso, e quindi sta per nascere, in realtà è già nata e sta arrivando anche in Italia, tutta una branca dell'economia che tiene sotto misura tutti questi dati. Luciano Canova, appunto, si è inventato questa app, ma immaginatevi quante cose si possono tirare fuori se si guarda un essere umano, una società o un'azienda, non nella sua semplice nell'output di quanto guadagna, ma di come si comporta nella sua più grande, diciamo, generalità. Io ho fatto sempre l'esempio quando mi chiedevano, immaginatevi se potete chiedere a una persona se sta bene solo se ha la febbre o meno. Una persona può essere malata e non avere la febbre, così come potrebbe anche essere semplicemente raffreddata e avere un po' di febbre, ma il giorno dopo stare benissimo. Oppure quindi, avere la febbre ed essere felice ad avere la febbre. E stare benissimo lo stesso. Insomma, l'economia, per fortuna, lo dico da fisico, va trattata con strumenti molto più vasti, che non sono solo il fatturato e il PIL e il denaro, anche se anche quello conterà per sempre, ma con degli elementi più vasti. Mi piace che Luciano metteva in correlazione il calendario, il tempo, e per quello si chiama epimeteo, e si vedeva proprio come al variare del meteo cambia la felicità geografica delle varie zone. Però questa è meteoropatia, sì, diciamo, non è esattamente economia. C'è la cosa che vai. Sì. È correlata anche con il calendario, si vedeva proprio, anche lì ce lo si poteva immaginare, che il 27 del mese, giorno di stipendio, la felicità aumentava in molte zone d'Italia. Questa cosa, messa insieme ad altri dati e notizie che arrivano dalla politica, piuttosto che dalla politica internazionale, ti dà un quadro di un paese diverso da quello che può essere il PIL o non il PIL. Insomma, ma che cosa se ne fa di questi, scusami, perdonami la domanda da ignorante, ma che cosa se ne fa l'economista dei dati che raccoglie? Cioè ti manda a te, in questa app ti chiede quanto sei felice da 1 a 10 oggi alle 17 e poi sì, che cosa fa? Incrocia i dati? Se ne ha veramente tanti, come gli auguro, se tanta gente scaricherà questa app potrà fare veramente un'analisi statistica seria. Ma era in Bhutan, calcolavano il PIL, che era la felicità interna lorda, avevano seguito quello, il PIL col PIL, cioè, certo, no, perché è una cosa che si dice, ne possiamo parlare, no, però beh, che si dice spesso che il PIL in realtà non valuta la qualità della vita, che quindi è molto molto più vicina alla felicità e all'umore, diciamo, della popolazione. Quello che mi rendo, cioè, che lavorando in un fab, che è un luogo un po' anomalo di lavoro, ci si rende conto che quando le persone sono un po' più felici producono meglio innovazione, producono meglio nuove idee. E più mi chiedo, se un'azienda si servisse di questi dati per i propri dipendenti, quante innovazioni in più potrebbe fare all'interno del suo processo di produzione? Cioè, tu dici, potrebbe monitorare il grado di felicità e quindi in questo modo fare delle scelte. O anche stimolarlo, certo, perché poi gli economisti ti danno anche delle indicazioni, non solo misure. Insomma, e l'idea che un'azienda è più felice e quindi produce meglio potrebbe essere preso come come sistema per produrre meglio, quindi aumentare il fatturato mettere al centro anche la qualità della vita. Grazie a Massimo Temporelli e le sue visioni. Noi andiamo a giocare. Emma da Monza ha fatto l'800240024 per cercare di beccare il personaggio notizia della settimana. Ciao Emma. Sì, buongiorno. Sei felice? Adesso faccio l'applicazione. Sei felice in questo momento? Sì, io sono felice. Perfetto. Ha ragione quel signore che ha parlato prima. Massimo Temporelli. Come si chiama l'economista? Scusi. Canova. Luciano Canova. Ah, interessante. Sì, no, ma è vero, perché io adesso non lavoro più, comunque sono in pensione. Ah. E mi ricordo che ho avuto un principale che veramente era terribile, io ero sempre infelice. Quando poi hanno cambiato, è arrivato un altro... È cambiato il tuo approccio al lavoro, certo. Mi diceva sempre fai questo, diceva fai da sola, ecco, io lasciandomi da sola così io riuscivo a essere emergere ed ero più felice e davo di più. Vedi, ottimo, insomma, quindi abbiamo concretizzato subito una teoria. Sì, no, è vero quello che ha detto, che dice l'economista Canova, veramente. Vai, Emma, giochiamo. Qual è il personaggio? Sì, allora io non lo so, direi ho cambiato tante di quelle volte, direi Renzi. Cinque minuti fa invece dicevi? Avevo detto Grillo. Okay, Grillo. E prima c'è tutto l'arco costituzionale? No, perché poi voi avete detto che fa parte della coppia consolidata. Il motivo, no? Uh-huh. Cioè perché la moglie, quando fanno le riunioni da Leopolda, la moglie Agnese non si è degnata ad uno sguardo al ministra Boschi. Ecco, però, per me era quello il motivo. Siamo hai dei gossip incredibili, devo dire. Non ti chiederò qual è la notizia legata a Renzi, perché ce n'è 96 al minuto, sì. Quindi diciamo su quello c'hai sicuramente preso, però non è il personaggio che abbiamo scelto per questa volevo settimana. Volevo andare a vedere Van Gogh, Cribio, che costa 12 euro andare a vederlo. Puoi andare a vederlo lo stesso. Ti diamo questa notizia, anche se non hai indovinato, nel senso che non vengono fatte domande all'ingresso, non è che uno dice, lei non è che ha dato una risposta sbagliata. No, basta questo il biglietto e comunque dà felicità, quindi insomma ci sono soddisfazioni. Ciao Emma, grazie, buona domenica. Grazie anche a voi. Andiamo al volo a Roma da Antonio. Ciao Antonio. Ciao Federico, come state? Abbastanza bene, grazie. Buongiorno, sono contento. Senti, l'arbitro può essere? L'arbitro, il pubblico non appare mai da solo, ha sempre l'ultima parola, è vero? La coppia. Qual è la coppia? Il guardaline, l'arbitro guardaline. No? Beh, è un trio, diciamo, almeno. Sì, però diciamo un collaboratore. Sono quattro, giusto. Sì, c'è anche il quarto uomo. E la notizia legata agli arbitri, c'è una notizia? Io non sono un grande amante del calcio, sì, mi pare che questa settimana un arbitro ha avuto un infortunio, l'hanno portato via in barella, una cosa del genere. Sì, è vero. Comunque gli arbitri ci sono anche nel tennis, per dire, non è che gli arbitri ci sono solamente nel calcio. Comunque purtroppo non è il nostro personaggio, ma ti ringraziamo di aver chiamato. Ciao. Buona domenica. Buon lavoro, ciao a voi. Grazie. E quindi è il momento di dare il quarto indizio, ed è questo personaggio, in senso lato, non è garante della privacy. Non è garante della privacy. Questa è notizia della settimana, non è garante della privacy. C'è una notizia molto precisa di questa settimana. Molto colorata. Sì, anche molto colorata. Ok, questo potrebbe essere decisivo. 800-24-00-24. Come un albero che vive in mezzo agli alberi, mi sento quando giro per il mondo. Cerco di far sì che il vento non mi butti giù e di affondare le mie radici nel profondo. Prendo il sole in faccia per far sì che le mie foglie siano ben appiccicate lungo questi rami. Ospito tra le mie braccia nidi di uccellini e do rifugio nel mio culto a molti fiami. Proprio come un albero mi spoglio e mi rivesto a seconda se c'è freddo o c'è calore. Dentro la genetica la mappa delle cellule descrive a quale genere appartengo. Se sono una quercia oppure un salice piangente oppure un babavo d'un fatto di pianura. Quello che è importante è che al mondo ci sia spazio per qualsiasi espressione di natura. Prendi il sole in faccia. Con Giovanotti andiamo a raccontare l'Italia di Si può fare, l'Italia delle idee, l'Italia delle iniziative, l'Italia di chi ci crede, l'Italia di chi ha visioni. Mi piace usare questa parola e abbinarla a Si può fare, perché quando poi le visioni diventano, si concretizzano, è tutto molto bello. Diamo il benvenuto a Martina Lucchi. Ciao Martina. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Architetta, salve. Paesaggista, che cos'è Street Italia? Allora, Street Italia è un giovane studio di progettazione del verde con sede a Cesena, in Emilia Romagna, E lo studio si occupa di riqualificare aree urbane degradate attraverso l'uso proprio degli alberi, e quindi appunto promuoviamo la forestazione di aree pubbliche e private. Uh-huh. E nello specifico noi offriamo la possibilità ad aziende e organizzazioni di investire sul verde urbano in Italia, costruendo dei progetti che portino nuovi alberi in città, in aree pubbliche, grazie a questi sponsor privati. Quindi la novità è questa, cioè, al di là appunto il progettista di aree verde non è una novità, per fortuna è una professione che c'è già da tempo. L'architetto d'esterni, diciamo. L'architetto d'esterni, adesso non... Sì, beh, diciamo che il paesaggista poi ha proprio questa grande potenzialità di riuscire a agire su grandi spazi del territorio, quindi proprio parlando si parla di territorio, paesaggio. E appunto noi nello specifico cerchiamo di usare l'albero come elemento proprio naturale, perché produce moltissimi benefici attraverso appunto l'uso di un unico elemento verde che è l'albero, appunto, per andare a riqualificare aree urbane che hanno perso momentaneamente un uso specifico, oppure sono aree abbandonate, degradate in periferia e non sono vivibili più dai cittadini. Quindi la nostra idea è quella di coinvolgere dei privati, perché in questo momento le amministrazioni purtroppo magari non se lo possono permettere e non hanno una lira, diciamo, per sintesi. Esattamente. E quindi anzi sono estremamente collaborativi e sono molto felici ovviamente di ricevere queste tipologie di progetti che vengono sponsorizzati da privati che hanno voglia, soprattutto noi la cosa che facciamo è quella di coinvolgere delle aziende italiane che lavorano in Italia e che vogliono investire per il proprio territorio e per i propri cittadini. Ma come avviene, scusa, forse è una domanda stupida, ma come avviene la sponsorizzazione? Cioè scrivono il proprio marchio sul fusto o meno? Praticamente, allora loro decidono di piantare, per esempio, vi faccio due esempi che abbiamo seguito, per esempio quest'anno abbiamo lavorato con due aziende, una di Milano, GS1, che ha sponsorizzato un bosco a Treviso e loro hanno regalato praticamente all'amministrazione degli alberi in un parco che ne era sprovvisto e in cambio in realtà loro non hanno fatto altro che porre dei cartelli, tra l'altro noi abbiamo fatto dei pannelli educativi, quindi riportando delle informazioni degli alberi, le caratteristiche, raccontando quello che gli alberi fanno per l'ambiente e per i cittadini, e ovviamente viene riportato il logo. Certo, insomma, e poi certo. La commissione tra pubblico e privato è un nostro cavallo di battaglia. Anche per esempio anche con l'azienda la catena di supermercati Aliper in Veneto, sempre anche loro hanno deciso di riqualificare 15 aree vicine ovviamente ai loro centri commerciali, ma che erano aree non vivibili perché erano appunto degradate e abbandonate, quindi hanno restituito suolo permeabile e visibile e fruibile ai cittadini della loro... Martina, qual è l'albero che va in questo momento? Perché insomma c'è un albero che è più cool che degli altri, sì, che va per la maggiore. Allora, gli alberi, allora si sente sempre parlare di usare specie autoctone, sì. Quindi alberi che sono tipici di quella zona, di quella reale. Per l'ambiente urbano purtroppo non è sempre così vero, nel senso che esistono invece proprio delle specie esotiche che sono da utilizzare a scapito di quelle autoctone, perché in città ci sono delle condizioni avverse che tipo? Molto spesso per esempio la Correuteria paniculata è una su tutte. Oppure mi trovi impreparato, ma c'ha un nome un po' più così Marco. Però allora, per esempio, ci sono anche, per esempio, c'è il nome volgare, c'è il nocciolo di Costantinopoli. Ecco, già. Che è volgare ma già elegante, esatto. Comunque... va con tutto il nocciolo di Costantinopoli. Insomma. Ci sono anche delle varietà diciamo più autoctone, come può essere l'acero, però ci sono delle varietà specifiche adatte all'ambiente urbano, oppure anche i tigli stessi, che per esempio c'è una varietà, la Brabant, che è una varietà che è stata scelta e ricercata proprio perché non emette la melata, quindi quindi quella sostanza appiccicosa quando voi parcheggiate le auto. Certo, anche il vetro del mio motorino la conosce benissimo. Okay. Ecco, esatto. Voglio la Brabant. Che è già un logo, tra l'altro. Esatto. Martina, ecco. Martina, grazie davvero. Ricordiamo Street Italia, insomma, questa bella esperienza. Il pensavo andassero privato. Molti salici piangenti, devo dire, visto la crisi. Invece no, mi va molto lacero. C'è voglia di molto felicità. Bene. Le informazioni, esatto, per chi sta viaggiando. Scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In pubblico non appare mai da solo, ha sempre l'ultima parola, fa parte di una coppia consolidata, non è garante della privacy, è molto colorato. Possiamo dare anche il colore, dici? No, secondo me è bello perché sono molto emozionato, perché credo che sia la prima volta che forse i nostri ascoltatori non riusciranno a indovinare il nostro personaggio della settimana. Tu non hai fiducia in Irene da Cagliari? Non hai fiducia in Irene da Cagliari? No, dai, sentiamo Irene da Cagliari, in effetti. Ciao Irene. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, smentiscimi. Io penso sia Alfonso Signorini. Alfonso Signorini. La notizia? Qual è la coppia, scusa? La notizia è riferita, penso, al ministro Madia. Madia, la conosciamo tutti, è il titolo che ha fatto Signorini su chi? Sulla Madia che mangia il gelato, giusto? Sì, ed appunto commentava. Mangia il gelato e non il calippo. Sì, ma insomma c'è un po' di allusione sessuale. Vabbè, adesso possiamo per una volta possiamo anche non citare quel titolo. Tra l'altro Signorini ieri da Fazio ha chiesto scusa, nonostante all'inizio avesse in realtà detto io rivendico il diritto al divertimento, invece ieri ha detto era un titolo veramente brutto e ha chiesto scusa. Ma siamo curiosi anche di sapere come mai, cioè, fa parte di una coppia consolidata, per esempio. Lui e chi? Lui e chi? Beh, questo ci sta, no? No, dici qual è la coppia consolidata? No, non lo so. Infatti non è questo il personaggio, è la notizia della settimana. Ciao Irene, grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao, buongiorno. Ciao. Andiamo a Bergamo? Andiamo a Bergamo. Da Matteo. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come stai? Va abbastanza bene, dai, a parte il tempo un po' gioioso, però va bene. Vabbè, ragazzi, è novembre. Dove sei? A Bergamo sei? Sì, provincia, diciamo Albino, la seconda città di Bergamo. Va bene, dici, perché cosa ti chiamavi? Allora, chiamo per dare la risposta. Sì. Pensavo che potrebbe essere la spunta blu di WhatsApp. La spunta blu di WhatsApp, grandissimo, in zona Cesarini. Sono molto contento, in realtà, cioè eravamo contenti anche di portare lo stesso personaggio anche la settimana prossima, però hai assolutamente vinto. Raccontaci tu la notizia, allora. Come, scusi? Raccontaci la notizia di come mai la spunta, che cosa è successo alla spunta. Ma abbiamo visto, cioè almeno ho visto un po' su le varie informazioni, ho visto internet un po' durante la settimana, siccome io non ho WhatsApp, la mia fidanzata sì, quindi io sto facendo tutti i modi per recuperare un telefonino con WhatsApp, e lei appunto mi ha detto vabbè, allora mi preparo, e sapeva saputo questa notizia che poteva nascondere i suoi messaggi, allora... Giusto. Lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, la spunta di WhatsApp, la notizia che questa settimana c'è la nuova spunta di WhatsApp che diventa blu nel momento che diciamo, a chi mandiamo il messaggino ha letto il messaggio, noi abbiamo la conferma che lui l'abbia o lei l'abbia letto il messaggio, quindi era per questo che, diciamo, non difende la privacy, in pubblico non appare mai da solo, la coppia di fatto sono i due segnetti di spunta di WhatsApp, quindi complimenti, non ce l'aspettavamo. Matteo, hai vinto due biglietti per la mostra di Van Gogh a Milano, quindi se c'è brutto tempo direi che puoi venire subito di corsa a vederti la mostra. Ciao. Va bene, grazie, ciao, ciao. Mille. A domenica. Ciao, grazie. A voi altrettanto, ciao. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è un... Con Frank High Energy andiamo a Bologna, abbiamo due minuti di tempo, ma lui sarà bravissimo, lui è Vito Bernardo, coordinatore progetti sociali, l'altra Babele, e grazie a 25 euro e al fatto che ho urlato come un forsennato mi sono acquistato una bicicletta alla loro asta. Ciao Vito. Ciao. Ciao. Buongiorno. Che cos'è Altra Babele? Hai un minuto e mezzo di tempo per pedalare e dircelo. Wow, l'Altra Babele è un'associazione studentesca di promozione sociale che, partendo da collettivo universitario per attività sugli studenti, si è poi appassionata alla bicicletta e ha iniziato a contrastare il fenomeno della ricettazione dei furti delle biciclette a Bologna. Uh-huh. Qui a Bologna il fenomeno dei furti è una piaga incredibile che ci affligge da sempre, quindi noi non è una vostra particolarità, comunque direi che... la nostra particolarità è quella di lottare contro. Va bene, giusto, questo vi fa onore. Con questa cosa bella, recupero di biciclette usate, poi hanno le officine dove le risistemano, fanno queste aste molto divertenti perché il prezzo è fisso, quindi la bicicletta non viene venduta a chi offre di più, ma chi è più esuberante, più simpatico, più creativo nel fare la propria offerta. Dopo ieri c'è stata l'ultima. Ieri è stata esatto. 3esima edizione, quindi però... è di atti di biciclette che abbiamo fatto. Quindi una grande festa, e quando ti danno la bicicletta tu devi avere codice fiscale, carte di identità, perché le biciclette hanno una sorta di targa, giusto? Di marchiatura, sì. Hanno un codice inciso sul telaio, questo codice è inciso grazie al Comune di Bologna che lo offre, e la società che lo incide, Securmark di Roma, viene inciso proprio come il telaio delle macchine, quindi è incancellabile. Se uno lo gratta via con una fresa, poi il telaio si rovina, quindi è da buttare la bici. Ma è solo sulle vostre biciclette che avviene questo? Cioè è in qualche modo una proposta che voi vorreste fare che venga applicata su tutte le biciclette del paese? Noi vorremmo fosse applicato su tutte le biciclette del paese. Giusto. Non necessariamente quello che si fa a Bologna, ce ne sono decine di società che lo offrono, ma in sostanza funzionare la bicicletta è il metodo migliore per rendere identificabile, e quindi intanto disincentiva il furto, perché un ladro che la vede funzionato magari ci pensa prima di rubare, e poi in ogni caso, in caso di furto, è facile fare denuncia, è facile riconoscerla, perché poi le biciclette vengono rubate e girano comunque in città, quindi tu la rivedi, è facile che tu la possa rivedere, quindi puoi pretendere di riavere indietro se è funzionato. Insomma, è secondo me è un deterrente, funziona, e credo che sia una buona pratica che vada replicata. E poi queste aste sono una bella festa. Parlavamo oggi di Social Street, è veramente una festa di strada nel cuore di Bologna. Si ride e si pedala. Grazie, Vito, a te e a tutto il gruppo dell'Altra Babele. Grazie mille. Carlo, è il momento dei saluti. Sì, Giorgio De Luca, Lucia Tolve, Andrea Piane, redazione. Oggi Filippo Aureggia, la parte tecnica. Questa si può fare. E settimana prossima chissà chi ci sarà settimana prossima. Sarà questa il gioco. È il gioco, sarà esatto con chi conduce Carlo Gabardini. Si può fare settimana prossima. Ma queste aste sono molto curioso, devo venire assolutamente a Bologna a comprarmi una bicicletta, solo che la fatica poi è che da Bologna mi tocca venire fino a Milano pedalando, quindi è molto difficile, va bene, magari mi fermo sulla strada, faccio delle tappe. Si può fare, continua durante la settimana, potete trovarlo sul sito radio24.it e sui social, la pagina Facebook dove potete proporre la vostra canzone, oppure Twitter. Ancora ciao, ancora grazie, ancora buona domenica. Sì!